come ieri, come domani. La vita, sai, mi scorre fra le mani e passa come un fiume nel suo letto, portando quello che non torna indietro. Momenti che ho vissuto intensamente ed altri pieni di banalità, i giochi di un bambino che allora non sapeva di essere diverso da chi aveva la sua età. È tutto qui, quello che della vita porto via con me. È come se vedessi un film con la sua trama, dove l'eroe non sempre vince, ma gli piace quel che fa. E quando il film finisce, tutti i personaggi della storia sono sempre vivi dentro me. Le note in una magica alchimia rimangono una buona compagnia. Amori che ho cercato inutilmente e quelli avuti con facilità, e tutta la paura avuta da mia madre che il successo mi portasse via la libertà. È tutto qui, quello che della vita porto via con me. È come se vedessi un film con la sua trama, dove l'eroe non sempre vince, ma gli piace quel che fa. E quando il film finisce, tutti i personaggi della storia sono sempre vivi dentro me. La notte scopre la sua poesia quando i ricordi fanno compagnia. Alchimia, rimangono una buona compagnia.